Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ormai lo sapete, questa settimana abbiamo dedicato il Falco e il Gabbiano al Festival della Canzone Italiana, al Festival di Sanremo. Abbiamo raccontato quattro edizioni diverse, molto significative, alle quali si è aggiunto il fatto che ci ho partecipato anch'io, ma insomma non è stata certo una settimana autocelebrativa, anzi mi sono anche autousato come testimone per raccontare quello che ho visto. Arriviamo al 2003. Io ho partecipato con la canzone Nessuno Tocchi Caino assieme a Andrea Mirò e poi ve ne parlerò. Ma intanto, Festival del 2003, Pippo Baudo per il secondo anno consecutivo. Formula consolidata con scelte che però costeranno punti di audience e vedremo come. Intanto, al fianco di Pippo Baudo, Claudia Gerini e Serena Autieri, due attrici che cantano anche. Che paura quando ho letto che nel 2003 Sanremo tocca a me. E vabbè, cantiamo, e vabbè, cantiamo tanto ormai, insieme siamo qui. E loro cantano spesso, e forse è una di quelle scelte che il festival pagherà in termini di ascolto, in senso più ampio. Quello che si paga è il fatto che stanno cambiando i ritmi televisivi e invece il festival resta una manifestazione un po' dilatata nel tempo. In più è iniziata la controprogrammazione, quindi a pochi anni di distanza, in fondo a una quindicina d'anni di distanza dal 77,50 di picco d'ascolto del 1987, si scende. Destinazione Sanremo, che è un programma sperimentale che va in onda per individuare i giovani da portare al festival, non arriverà al 10% e la striscia quotidiana si fermerà al 2,9. È cambiato tutto. Intanto Mediaset è partita alla controffensiva e arrivano grandi trasmissioni che si contrappongono al festival, grandi film e grandi spettacoli televisivi. Insomma, e la concorrenza non sta più a guardare. Voi sapete benissimo che questa trasmissione ha una caratteristica a partire da una settimana in qua, cioè i nostri cantanti, i nostri cinque cantanti, sono accompagnati da un ospite. Stasera avremo tanti ospiti importantissimi che interrogheremo, con i quali parleremo e che poi saranno chiamati a votare. Allora io posso interrogarti, tu sei fai il primo ospite. Io posso anche, in questo momento faccio l'ospite. Ecco, vabbè, facciamo l'ospite. Io quando faccio l'ospite entro in maniera diversa. Scusa Fiorellino, ed ora un giovane, è molto emozionato, è la prima volta che si presenta davanti a queste telecamere, qualcuno di voi l'avrà già visto, Pippo Baudo! E sentite che, insomma, perfino Cecchetto, una delle persone più veloci a parlare, dinamiche, di presenza di spirito, soffre un po' questo dilatarsi dei tempi. Il festival si svolge dal 4 all'8 marzo. Intanto al 2002 si era chiuso con Robbie Williams, un membro transfugo dei Take That, che stava spadroneggiando nelle classifiche con Feel. La formula è simile a quella degli anni precedenti, soltanto che la giuria di qualità adesso si chiama giuria specializzata, cambiano ogni sera i giudici e poi c'è la benedetta quarta serata nella quale questa volta l'invenzione è ogni big fa un mini show di 8 minuti, ognuno faceva quello che voleva. Io mi ricordo che assieme a Andrea commentai i vestiti che io e lei avevamo nei festival precedenti, quindi fu una come dire, un siparietto di costume. Però certo, 8 minuti non sono pochi per una serata finale di un festival, moltiplicati per 20 cantanti sono più di 2 ore. In tutto questo c'è una canzone che io porto completamente diversa, non solo da quello che avevo fatto prima, ma anche da quello che era mai stato fatto in un festival, perché si parlava di pena di morte, di diritti civili, insomma una scelta particolare, e assieme a Andrea Mirò cantai Nessuno Tocchi Caino. Il falco e il gabbiano. Festival del 2003, nella sezione campioni Antonella Ruggero, Alex Britti, Bobby Solo e Little Tony, che cantarono un pezzo molto divertente sulla loro amicizia. E poi Iva Zanicchi, Alexia reduce dal secondo posto dell'anno prima, Camarere e Fausto Leali, Anna Oxa e Silvia Salemi, Luca Barbarossa e Nino D'Angelo. Insomma, come sempre, molto eterogeneo il cast, in piena tradizione baudiana, il mosaico che in fondo tutti cercano di allestire quando organizzano un festival. E poi c'è Giuni Russo, che canta Morirò d'amore. Giuni Russo, abbiamo raccontato al Falco e Gabbiano la sua vita, sta combattendo da tempo con un tumore, torna a Sanremo nel 2003 dopo la sua prima e unica apparizione nel 1968, perderà poco più di un anno dopo la battaglia con questa malattia. Arriva al festival con evidenti segni, insomma, della fatica, anche della chemioterapia che stava facendo, e dà una grandissima interpretazione. È stata scritta da tre donne, io, Maria Antonietta Sisini e la Magelli. È una poesia d'amore, basta, senza pretese, con una parola altissima. Quando una donna canta morirò d'amore, morirò per te, questo è amore altissimo. Qui raccontava a Domenica In di questa canzone, e in quella stessa trasmissione parlerà anche della sua grande amicizia con Franco Battiato. C'è stato un momento, anzi più momenti, che volevo ritirarmi perché è dura andare avanti da sole, però poi mi sono sentita morire, ho detto io non posso vivere senza cantare, qui devo andare a Sanremo. Voglio andare a Sanremo, ma mi ci vuole Polifemo, che in questo caso è Franco Battiato. E gli ho chiesto: Franco, me l'arrangi questa canzone? A lui la canzone è piaciuta, me l'ha arrangiata insieme a Roberto Colombo, con il quale avevamo già impostato il brano. E lei è venuta fuori questa canzone. Sono andata a Sanremo con una forza e con l'aiuto di Dio mi hanno presa. E sono andata a Sanremo, ho avuto un settimo posto, ma perdonatemi, io mi sento vincitrice del festival. Grande Giuni! È vero, è vero. Grande Giuni Russo, che in quel festival, lo ripeto, diede grande prova di sé. Ma quel festival, abbiamo detto anche questo, ne stiamo parlando, ci stiamo ragionando sopra, fu un festival problematico dal punto di vista degli ascolti. Intanto dall'altra parte arriva il Grande Fratello, arriva Zelig, e poi però ci sono decisioni discutibili: fare cantare tutte le vallette tutte le serate allunga ulteriormente i tempi, al punto che quando arriva Luciana Littizzetto sul palco non risparmia frecciate a Baudo. Sintetizza così il ritmo di quel festival dicendo a Baudo: è passata un'ora, abbiamo già le palle dilaniate, non possiamo fare un indultino e uscire un quarto d'ora prima. Baudo ride, ma sicuramente si sta rendendo conto che il festival sta prendendo una deriva un po' bulimica dal punto di vista dello spettacolo. E poi arriva Panariello e anche lui scherza sull'accoglienza non proprio lusinghiera dei giornali italiani sul Festival di Sanremo. Siamo passati da papaveri e papere a pippi e pippe. Io dove lo devo fare? Pippi e pippe. No, voglio dire, a me mi è andato peggio, perché una mattina mi telefona un mio amico e dice: oh, sei uscito sull'Espresso, sicché porca miseria, io tutto contento, mi sono fatto la doccia, mi sono alzato un'ora prima per andare a comprare l'Espresso, in copertina, questo era il titolo, la TV dei deficienti. È una soddisfazione dopo tanti mesi di lavoro, voglio dire. Intanto la gara deve cominciare e balza in testa Alex Britti con i suoi 7000 caffè. Il falco e il gabbiano. Ultima puntata dedicata al Festival di Sanremo. Stiamo raccontando l'edizione numero 53, quella del 2003, con Baudo in plancia di comando e io a cantare assieme a Andrea Mirò Di pena di morte, nessuno tocchi Caino. Peraltro, tra le polemiche, anche se io insomma non sono un tipo da polemiche grosse, però diciamo che una grossa delusione di quel festival fu il fatto che io quell'anno mi fossi presentato in sala stampa al teatro Ariston con un signore che si chiamava Leroy Orange, uno di cui magari un giorno vi racconterò la storia. Condannato a morte negli Stati Uniti, si fa 14 anni nella cella della morte. Cella della morte che vuol dire che ogni 2-3 settimane ti dicono ti ammazziamo quel giorno lì e poi prima di morire te lo rispostano continuamente la data dell'esecuzione. Questo Leroy Orange, ovviamente un nero, viene graziato e una settimana dopo io lo porto in sala stampa al Festival di Sanremo. Tenete conto che lui non poteva neanche camminare, cioè camminava come se fosse ancora legato ai piedi e ai polsi. E pensando insomma di sollevare un tema interessante sulla democrazia, sulle pene, eccetera. I giornalisti non capirono, cioè in qualche modo ci fu abbastanza disinteresse. Credo che questa fu, per quanto mi riguarda, la maggior delusione ricevuta dal festival. Cioè io ero arrivato per far riflettere e invece la conferenza stampa della vallettina di turno un'ora dopo aveva destato più interesse, o il flirt, eccetera. Quindi anche questo è il Festival di Sanremo. Ma torniamo al festival. Pippo porta ospiti internazionali a profusione: Peter Gabriel, Sharon Stone, Rod Stewart, Carla Bruni, Valentino Rossi, per cercare di risollevare gli ascolti. Però non andrà bene, tanto è vero che Baudo verrà congelato per alcuni anni, lasciando spazio ai tentativi di Simona Ventura, di Bonolis e di Panariello, fino a ripresentarsi nel 2007. Nel frattempo Baudo porta avanti la sua nave attraverso le tempeste, arrivando addirittura una serata a chiudere il collegamento dopo le 3 del mattino, scatenando l'ira dei sanremesi che vedono a rischio la vita notturna nei locali della città. Poi c'è una ragazzina che si chiama Alina che canta a soli 12 anni, quindi altre proteste, ma questo devo dire accade quasi sempre. E poi arriva tra gli stranieri Peter Gabriel, che getta nel panico tecnici della Rai perché si presenta con la bolla. Non so se vi ricordate, lui a un certo punto cantava un pezzo che si chiamava Growing Up all'interno di una vera e propria bolla, cioè di un pallone grandissimo, trasparente. Una scena che i fan di Peter Gabriel conoscono bene perché l'ha fatta anche in molti concerti. Però immaginate al teatro Ariston far entrare da dietro questa bolla enorme, mettendo a rischio magari l'incolumità del noce della situazione, che è lì in prima fila e magari gli arriva in testa Peter Gabriel che canta con la bolla. Tra l'altro io vedo Peter Gabriel nei camerini, ci incrociamo e ahimè eravamo quasi identici, perché adesso per mia fortuna io sono dimagrito e lui è ingrassato, ma ai tempi avevamo anche abbastanza la stessa corporatura. Io ho avuto il terrore che lui pensasse che io ero il solito comico che era lì per fargli da sosia, per imitarlo. Per fortuna poi è intervenuto un discografico, gli ha spiegato a grandi linee insomma chi io fossi, e quindi questo ha stemperato il mio imbarazzo e forse anche il suo. Comunque Peter Gabriel dà una grande prova di sé cantando Growing Up. E intanto la gara prosegue, la seconda tappa si porta in testa Alexia, dietro c'è Alex Britti e poi c'è Andrea Mirocco, nessuno tocchi Caino. E intanto arrivano al festival le prime notizie sull'Auditel che non va come si spera, e quindi arrivano anche dei comici all'ultimo momento. Uno di questi è Nino Frassica, che improvvisa il comizio di un sindaco giovane e piuttosto improbabile e fa una bellissima figura. Io ho il piacere e l'onore di presentare, è venuto il primo cittadino della città di Scassazza, il sindaco Alfonsino, si chiama Alfonsino, come Duran Duran, i dicchi. Alfonsino, il più giovane sindaco d'Italia, ha 7 anni, sindaco di Scassazza, che sette anni. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Ecco. Buonasera signor Pippo. Grazie. Mi sento onorato, lusingato, ecco. Di essere il sindaco, sì? Di Scassazza. Sì. e poi finalmente la nave si avvicina al porto e, come sempre, insomma, il primo atto del gran finale è quello della proclamazione del vincitore della sezione giovani. E qui vince una ragazza che tutti avevano notato, particolare, con una bella carica, si chiama Emanuela Trane e in arte è Dolce Nera, vince con Siamo Tutti Là Fuori, dando vita a una carriera interessante tra flirt nei reality e invece belle canzoni, poi lei è una brava musicista. Serata finale, Baudo deve inventarsi ancora qualcosa, allora rispolvera la rivalità con Mai Buongiorno, combattuta tra l'altro a suon di conduzioni del festival, e quindi è Mai Buongiorno che apre l'ultima serata e si complimenta con Baudo in un siparietto probabilmente visto e rivisto, però utile a cercare di arginare il calo degli ascolti. E poi c'è la serata finale, l'esibizione di tutti i campioni, il voto della giuria demoscopica, e poi che quell'anno insomma fu abbastanza particolare perché si poteva dare 0 a tutti e 10 a qualcuno, quindi ci fu anche un cartello del quale non vi dico nulla perché non sono un pettegole, perché ne sono stato vittima. Ma comunque alla fine si arriva al verdetto e al terzo posto si piazza Sergio Cammarriere con tutto quello che è un uomo. E al secondo posto c'è un grande musicista, grande chitarrista che anche a Sanremo dà prova di sé suonando molto bene dal vivo, con anche una canzone che è rimasta nel tempo, era Alex Britti con 7000 caffè, che arriva veramente a un'incollatura dalla vincitrice che è Alexia, che canta Per dire di no e in qualche modo viene risarcita della sconfitta dell'anno precedente, dove ha cantato un pezzo che rimase molto più nella testa della gente. Dimmi cosa posso fare. Beh, quella canzone lì in realtà andò molto meglio di quella che ha vinto, che era Per dire di no. Va bene così. È interessante ripercorrere attraverso anche il Festival di Sanremo la storia di questo paese, un paese che aveva iniziato con la radio, con le ricostruzioni del dopoguerra, un'Italia ingenua che si scandalizzava perché Iula De Palma cantava Tua tra le braccia tue, e poi invece che piano piano si sdoganava, cambiava le sue abitudini, cambiava anche i suoi gusti e non ci si scandalizzava più, arrivavano pance, ombelichi, gambe, spalline, e in qualche modo il Festival di Sanremo era sempre lì ad accompagnare il percorso di questo paese tra le sue salite e cadute, come il Falco il Gabbiano testimonia nel suo programma, quindi colpi d'ala fantastici ma anche cadute di stile vertiginose, con una altra particolarità: tante canzoni che vincono Sanremo e che vengono dimenticate, e viceversa, canzoni che non vincono Sanremo o addirittura vengono eliminate, arrivano agli ultimi posti e poi hanno una vita lunghissima e magari ce le ricordiamo ancora adesso. Una per tutte mi viene in mente Il ragazzo della via Gluck, perché in realtà al Festival di Sanremo ci sono tre classifiche. C'è la classifica, quella determinata dalle giurie o dal televoto o dal totipo, insomma questo premio qualcuno se lo deve pur portare a casa. Poi c'è la seconda classifica, che è quella della vendita dei dischi, e poi c'è la terza classifica, quella più importante, quella del tempo, quella per la quale nel 1983 Vado a braccio, Tiziana Rivale vince con Sarà quel che sarà, e non vincono né L'italiano di Toto Cutugno né Siamo solo noi di Vasco Rossi, e quindi insomma il tempo rende giustizia. Colpi d'ala, cadute e risalite di un paese, di un festival e anche di un conduttore che la sera in questa settimana si è divertito, si sta divertendo a andare a cantare la sua canzone nuova al Festival di Sanremo. Ma questa è un'altra storia. Se volete mandare dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure visitate la nostra pagina, oppure venite sui miei e sui nostri social. Insomma, se avete qualcosa da dirmi, sapete benissimo dove trovarmi. ciao, a lunedì si ritorna alla vita normale.